Job 24. Cacciatori di teste, vengono chiamati così coloro che sono alla perenne ricerca di manager, di talenti, insomma di candidati da collocare nel posto giusto al momento giusto. Ma come si fa a cadere preda di questi professionisti? A questo tema è dedicato un libro dal titolo Come farsi cacciare da cacciatore di teste, scritto da Attilio De Pascalis e da Vito Gioia, AD di ASA Executive Search e lui stesso cacciatore di teste. E Vito Gioia ci spiega innanzitutto come va il lavoro degli headhunter in questo periodo di crisi. Diciamo che i cacciatori di teste tendenzialmente lavorano sia quando le cose vanno bene che quando le cose vanno male. Non lavorano quando c'è una situazione molto incerta, come l'ultimo periodo, che più o meno è stato da novembre 2008 a febbraio 2009, in cui nell'incertezza le aziende si fermano in attesa di evoluzioni del mercato. Quindi avete ripreso adesso? Sì, nell'ultimo periodo c'è stata una ripresa, ovviamente nei periodi di sviluppo di mercato si cercano profili positivi di sviluppatori, nei periodi critici si cercano profili di ottimizzatori, tagliatori, dimensionatori di strutture. Cerchiamo ancora sì figure diciamo di tagliatori, ottimizzatori, ma cominciamo già a ricercare figure anche per gli sviluppi di mercato, soprattutto internazionali, molte società italiane che guardano ai mercati esteri. So che è impossibile riassumere nei pochi minuti che abbiamo a disposizione alla radio il contenuto di un libro, però qualche indicazione ce la dia, insomma, proprio io mi rifaccio proprio al suo titolo. Come si fa a farsi cacciare da cacciatore di teste? Come si fa a farsi notare, a farsi trovare a disposizione? Sostanzialmente non bisogna nascondersi, quindi non solo bisogna far bene il proprio lavoro, ma bisogna anche farlo sapere, quindi partecipare alla vita associativa, ogni tanto apparire sui giornali, far conoscere diciamo le proprie capacità, i propri successi, fare da speaker a qualche conferenza, ma senza esagerare, perché altrimenti poi si diventa più oratori che manager. I famosi social network dedicati ai professionisti possono servire? Sì, questo è uno strumento relativamente recente che stanno usando anche le società di ricerca del personale, perché comunque in questi network appaiono dei profili e dei curriculum e possono servire per una prima selezione di possibili candidati. Quindi non sottovalutare anche la tecnologia internet? No, sicuramente internet aiuta, soprattutto per le posizioni intermedie di quadri. Quasi tutte le posizioni appaiono su internet e quindi ci si può riferire direttamente a queste ricerche inviando il proprio curriculum. Grazie a Vito Gioia, autore insieme ad Attilio De Pascalis del libro appena uscito per il Sole 24 Ore, Come farsi cacciare dai cacciatori di teste. Ed è tutto per oggi. Segnalo, prima di salutarci, le pagine di Job 24 in uscita domani come ogni mercoledì con il Sole 24 Ore. Un saluto da Roberta Pellegatta.